Si occupava solamente di storia militare, di storia politica e istituzionale, non si occupava di storia della mentalità, di storia della cultura. Quindi solamente negli ultimi decenni i mass media sono visti come fonte primaria per la ricostruzione della storia politica e sociale. E ho portato qualche libro, e ho portato questo libro curato dall'Istituto Parri di Roma, che ormai è un reperto storico, è un libro stampato ormai 30 anni fa, una serie di conferenze di Bernagozzi, e che per la prima volta analizzavano ad esempio i cinegiornali del Luce come fonte di ricostruzione della storia contemporanea. A questo proposito ricordiamo anche che i cinegiornali del Conte del Luce, che riguardano la provincia di Bolzano, sono stati raccolti, digitalizzati, catalogati e sono a disposizione del pubblico presso il centro Trevi. Dopo questo primo lavoro, negli ultimi 20 anni, diversi autori si sono rapportati con la storia della radio, della televisione e anche del cinema. Ad esempio, Pierre Sorlin, dell'Università della Sorbona di Parigi, Veramente parigiotto. Parigi 8, scusate, ha pubblicato La storia dei film, pubblicato dalla Nuova Italia, e in seguito anche questo libro recente, intitolato L'immagine e l'evento. Nella stessa collana della Nuova Italia è presente questo volume di Giovanni De Luna, L'occhio e l'orecchio dello storico, quindi le fonti audiovisive nella ricerca e nella didattica della storia. Nella stessa collana c'è anche il volume di Gianni Isola, recentemente scomparso, prematuramente scomparso, uno storico che ha lavorato molto anche all'Università di Trento e di Padova, intitolato L'ha scritto la radio, se non sbaglio. No, intitolato, sono due volumi, abbassa la tua radio per Abbassa la radio, favore per favore. e cari amici vicini e lontani. Cari amici vicini, che ha studiato l'importanza della radio, della diffusione della storia della realtà del Novecento, e Gianni Isola ha studiato anche la divulgazione della storia tramite le riviste di storia, no? Tipo Storia Illustrata e cose di questo tipo. E l'importanza delle fonti televisive è dimostrata anche da una serie di convegni che sono stati organizzati negli ultimi anni. Prossimamente c'è questo a Bologna su politica e televisione in Europa, i diversi casi nazionali, germanico, inglese, francese e italiano. L'Istituto Parri di Bologna, che è sempre molto attivo in questo settore, ha curato un convegno i cui atti sono stati pubblicati da Marsilio, intitolati Archivi televisivi e storia contemporanea. E ultime, volevo segnalarvi questi volumi di Benedict Anderson, Comunità immaginate, e Arjun Appadurai, Modernità in polvere, che parlano un attimino dell'importanza del capitalismo a stampa, come diceva Anderson, no? Cioè l'importanza del giornalismo per la costruzione di queste comunità immaginate ottocentesche, le comunità nazionali, ma l'importanza dei mass media elettronici, di cui parla Appadurai, nel mantenimento di queste identità nazionali in una fase di frantumazione e parcellizzazione. E per questo motivo quindi abbiamo chiamato Peppino Ortoleva, che è uno dei maggiori esperti nazionali di questa tematica, e come sempre abbiamo tentato di abbinare a una relazione di carattere nazionale, una relazione di carattere locale, e non potevamo non invitare Gianni Faustini, che è stato l'anticipatore di questa tematica. Già negli anni 70 ha pubblicato una serie di articoli pubblicati sulla rivista Il Cristallo, la rivista del professor Negri, relativi alla stampa italiana dall'annessione al fascismo. Questi articoli poi sono stati opportunamente pubblicati e raccolti in questo volume, intitolato appunto La stampa italiana in Alto Adige, dell'annessione al fascismo, e quindi Gianni Faustini è stata la persona che ha per la prima volta così arato questo campo, anche se devo dire che purtroppo questo libro è stato saccheggiato dalla tesi di laurea e altre ricerche di questo tipo, però non si è andati oltre in questo filone, no? Nell'analisi dei mass media italiani per quanto riguarda la costruzione dell'identità nazionale anche in sede locale. E quindi do la parola a Peppino Ortoleva. Vi ringrazio, ma io sentendo anche un po' l'impostazione che l'amico delle donne ha dato alla discussione e volendo, come dire, collegarmi anche a quello, al tema che verrà trattato dal professor Faustini, tenderei a forse a rivedere un po' la mia impostazione, perché appunto originariamente pensavo di parlare un po' del taglio di questo mio volume, Media Storia, che è arrivato alla terza edizione, che è un tentativo di spiegare un po' la storia dei media nell'8-900 a livello internazionale. Forse vale la pena di calare un po' più nella concretezza della realtà italiana questa vicenda di cui parliamo, cioè quello di cui vi parlerò quindi è diciamo, le caratteristiche generali del sistema dei media in Italia e i problemi che la comunicazione in Italia ha conosciuto da molto tempo, quantomeno dall'inizio del Novecento, e che tuttora fanno da sfondo alla situazione in cui viviamo. Di media in Italia non si parlava neanche, questa parola era sconosciuta negli anni 60, quando nel 1967 la casa editrice Il Saggiatore decise di fare l'edizione italiana di un libro importantissimo che si chiamava appunto Capire i Media, Understanding Media di Marshall McLuhan, lo intitolò Gli strumenti del comunicare, perché la parola media in Italia era ancora del tutto sconosciuta, non si sapeva neanche se dire media o media, molti hanno ancora il dubbio oggi, e in generale era una parola appunto per specialisti. Pensate quanta strada ha fatto, sono passati neanche 40 anni e oggi l'espressione è colpa dei media è una delle più diffuse nel nostro gergo. Io non voglio parlare specificamente di Silvio Berlusconi, anche se naturalmente è difficile parlare di media in Italia senza tener conto della sua presenza. Voglio parlare del quadro complessivo in cui sia il fenomeno Berlusconi, sia in generale la vita della comunicazione in Italia si è svolto e si svolge. Perché noi ci troviamo in una situazione paradossale, che siamo la prima mediacrazia del mondo, cioè il primo paese dove il governo coincide, almeno in parte, con un'azienda che si occupa specificamente di televisione, e contemporaneamente siamo uno dei paesi del mondo occidentale dove i media, dal punto di vista dell'autonomia economica e politica, sono più deboli. Perché l'industria mediatica italiana non è paragonabile né per dimensioni né per autonomia né a quella ovviamente degli Stati Uniti, che domina il mondo ormai da molto tempo, almeno nel campo dei media, né a quella stessa di paesi come il Regno Unito, come la Francia o come la stessa Germania, dove esistono colossi dal gruppo Bertelsmann al gruppo Springer, eccetera, che sono di dimensioni non paragonabili a nessuna azienda italiana. Allora, come mai questo paradosso? Come mai i media in Italia sono contemporaneamente così importanti e così deboli? Deboli economicamente, deboli in termini di autonomia. Forse tra le due cose c'è meno contraddizione di quanto sembri, perché in realtà il fatto che oggi la televisione sia al potere è forse l'altra faccia del fatto che da quando in Italia c'è stata la televisione sia sempre stata molto legata al potere. Solo che per molti decenni era chi comandava la politica che comandava la televisione e adesso sta succedendo il rovescio, ma forse è semplicemente l'altra faccia della stessa medaglia. Ma il problema risale a prima della televisione. La televisione è solo un punto di arrivo di un processo molto più antico. Il mondo dei media in Italia è abbastanza particolare perché fondamentalmente noi dobbiamo ricordarci che noi chiamiamo media un insieme di cose estremamente varie, che vanno dal cinema alla televisione, alla canzone e così via. Una delle cose curiose è che l'Italia, paese che è sempre stato piuttosto forte anche a livello internazionale, nel campo per esempio del teatro popolare e della canzone, l'Italia ha esportato canzone per decenni, per molti decenni la canzone napoletana era la canzone europea più popolare, eccetera. È sempre stato molto più debole sul piano editoriale, sia giornalistico che librario. E questo ha delle radici, se ci pensate bene, strutturali, anche molto semplici. La lingua italiana è una lingua parlata da ben pochi fuori dall'Italia, un po' di emigranti italiani che generalmente sono passati direttamente dal dialetto a una lingua straniera, e i ticinesi, che non sono in numero tale da arricchire moltissimo l'editoria italiana. Se voi pensate alla differenza con le aree anglofone e francofone del mondo legate alla doppia colonizzazione di questi paesi, prima nelle Americhe, poi in Africa, se poi pensate alle aree ispanofone o lusofone del mondo, legate alla colonizzazione soprattutto americana del Portogallo, ma anche in parte africana del Portogallo e della Spagna, vi rendete conto che l'Italia da questo punto di vista è un paese che ha un bacino soltanto nazionale, il che può essere un elemento di forza, no? Avere una lingua che coincide realmente col territorio nazionale è un elemento di identità forte. Peccato che gli italiani, come sappiamo, leggano poco i giornali e li leggono poco, e anche i libri, e li leggono poco storicamente perché l'alfabetizzazione in questo paese ha proceduto molto più lentamente che nel nord Europa. Ci sono motivi religiosi, ci sono motivi culturali, ci sono motivi di tutti i generi, ma fondamentalmente i giornali in Italia all'inizio del Novecento era in grado di leggerli una piccolissima percentuale della popolazione, anche perché erano scritti tipicamente in una lingua letteraria. E questo poi è l'altro grande paradosso italiano, che i giornali erano scritti in una lingua difficile da leggere per gli stessi che sapevano leggere, che comunque erano una minoranza. Perché in realtà non erano scritti per le masse i giornali. Quello che si è verificato in Italia molto presto è stata una sorta di grande circolo vizioso. Quando nel 1931 il giornalista ebreo tedesco Emil Ludwig intervista un Mussolini non ancora antisemita, ma già molto preoccupato della sua immagine, infatti l'intervista non viene pubblicata in Italia, viene pubblicata in tutto il mondo, ma non in Italia, perché Mussolini non è contento della figura che ci fa. Quando Ludwig intervista Mussolini gli chiede: ma perché in Italia vietate la stampa libera? E Mussolini dà la tipica risposta di tutti i dittatori. Lenin diceva qualcosa di abbastanza simile, anche se un pochino più articolato. Dice: in realtà non c'è nessun paese dove la stampa sia più libera che in Italia, perché la libertà non coincide con dire quello che si vuole, ma quello che si deve. Bellissimo ragionamento, quindi sostanzialmente la stampa italiana è libera. Ma poi aggiunge velenoso: e poi comunque i giornali, se non rispondessero al fascismo, risponderebbero ai banchieri e agli industriali che li posseggono. E questo era maledettamente vero, perché tolta la stampa socialista anarchica e la stampa cattolica, che ha sempre avuto una funzione particolare e sulla quale poi dovremo tornare un attimo, perché quello è un fenomeno un po' a parte, tolta la stampa socialista, anarchica, comunista da un certo momento in poi, e la stampa cattolica, il grosso della stampa cosiddetta indipendente era già allora, e non da allora, essenzialmente prolungamento delle banche, il Mattino di Napoli, del Banco di Napoli, eccetera, e delle grandi imprese. Il Secolo XIX e il Messaggero erano l'espressione della famiglia Perrone, che era la proprietaria dell'Ansaldo, così come naturalmente la stampa era già allora l'espressione della famiglia Agnelli. Allora sì, perché fu acquisita nel 25 la proprietà, quindi è nel 31 che Mussolini parla, quindi siamo già in questa situazione, e così via. Cioè, in Italia si è verificato da moltissimo tempo il fenomeno per cui la stampa quotidiana, laica, è in larga parte proprietà dei grandi interessi capitalistici. Allora la domanda che uno si può fare è: ma perché i grandi gruppi capitalistici devono comprare i giornali che non legge nessuno, o che leggono quattro gatti? E la risposta è che li leggono quei quattro gatti che importano a tutti, nel senso che sostanzialmente da allora e ancora in parte oggi, anche se meno, vale quella cosa che scrisse una volta un grande giornalista italiano, Enzo Forcella, un famoso articolo degli anni 50 che si chiamava 1500 lettori, in cui sosteneva che sostanzialmente i giornali in Italia vengono scritti per 1500 persone. Questo tra l'altro è uno dei motivi per cui tutti gli altri non ci capivano nulla, perché non era a loro che si rivolgevano, erano scritti spesso in linguaggio cifrato, eccetera. Perché 1500 lettori? Perché sostanzialmente leggere la stampa significava, e in parte significa tuttora, capire che cosa vuole e che cosa soprattutto non vuole, fortissimamente non vuole, la famiglia Agnelli. leggere ovviamente i giornali di partito, ma questo è normale, significa capire cosa vogliono i partiti, ma questo, ripeto, è normale. Leggere appunto il Messaggero significava capire cosa voleva il gruppo Ansaldo, che era un gruppo gigantesco, salvo poi diventare parte dell'IRI, eccetera, di acciaierie e anche interessi di tipo finanziario e armatoriale. Quindi sostanzialmente noi abbiamo avuto questo strano equilibrio per cui i giornali leggevano in pochi, ma i giornali in Italia, di giornali in Italia ce n'erano tanti, parlo di quotidiani, che appunto venivano letti da coloro che era importante che li leggessero. E guardate che succede ancora in parte adesso, cioè spesso su alcuni giornali qualche articolo che vi fa sobbalzare. Mi ricordo quando ci fu la crisi della Parmalat, Piero Ostellino sul Corriere della Sera scrisse un articolo tutto criptato con due aziende che facevano parte del famoso paese di Curlandia. Mi ricordo che uno era la Curlat, ma l'altro non mi ricordo cosa fosse, e i diversi scenari per questa azienda. E io credo di avere vagamente capito che cosa volesse dire l'articolo. Disinvestito le azioni Parmalat, è disinvestito la No, Parmalat. quello no, no, era già successo tutto quanto. No, ecco, a proposito di questo, questa è un'altra cosa molto interessante. Che la Parmalat fosse destinata al tracollo lo si sapeva in Italia da almeno, cioè chi era informato lo sapeva da almeno un anno e mezzo prima che le cose venissero al pettine. A me personalmente l'aveva spiegato un imprenditore del settore lattiero-caseario, proprio in termini precisissimi, i motivi, la famiglia e così via, un anno e mezzo prima, e quando gli avevo detto: ma sono notizie che sono notizie bomba, lui disse: ma lo sanno assolutamente tutti quelli che lo devono sapere e anche molti che non lo dovrebbero sapere, compresi, immagino, molti giornalisti finanziari. Allora la domanda è: per quale motivo queste notizie non escono? Per quale motivo, a parte la buffonata del ministro delle finanze che lo dice alla Banca d'Italia e non lo dice ai finanzieri che dovrebbero andare a ispezionare le aziende, ma questo lasciamolo stare perché è folklore. Ma la cosa più incredibile è: quanti giornalisti presumibilmente sapevano quello che stava succedendo alla Parmalat e non l'hanno detto? Non l'hanno detto perché? Perché in Italia il giornalismo investigativo è fermo ormai da molti anni. La politica dell'andare, anzi, salvo un periodo interessante negli anni 70 e 80 in cui si è mosso, il lavoro del giornalista è stato molto di più quello di appunto cercare, trovare, eccetera, semmai le notizie che servivano alla parte con cui era collegato. E questo lo dico non per dire che in Italia il giornalismo sia cattivo, ma per dire che è oggettivamente condizionato da un sistema economico e politico in cui è estremamente difficile, se non impossibile, avere un giornalismo realmente indipendente. Perché qual è il giornalismo realmente indipendente? Quello che dipende per vivere solo dai lettori. Se non c'è un bacino di utenza adeguatamente ampio per garantire questo, se i giornali cosiddetti indipendenti dipendono da interessi capitalistici che comunque servono a tappare il buco che deriva dalla mancanza di sufficienti lettori e così via, inoltre si è creato un meccanismo ulteriore. Il meccanismo ulteriore riguarda i rapporti tra giornalismo e televisione a partire dagli anni 50. Nel senso che a partire dagli anni 50 che cosa è successo? È successo che è scoppiato il fenomeno televisione. Il fenomeno televisione, che significava non semplicemente un mezzo di comunicazione di massa che aveva un pubblico che raggiunse nel giro di 7-8 anni da zero alla maggioranza delle famiglie italiane, perché la televisione in Italia viene introdotta nel 1954 e arriva a oltre il 50% delle famiglie nel 61-62, rendetevi conto di che razza di botto sia una cosa del genere, cioè cambia tutto il panorama dell'informazione, ma un mezzo che tra l'altro entra in casa e che si presenta come il mezzo ideale per una serie di prodotti che devono farsi pubblicità e che fino ad allora avevano usato in parte le riviste femminili e non, in parte piccola ai quotidiani e che cercavano un grosso sbocco. Che cosa succede? Succede che si incontrano e si scontrano questi mezzi tra il 1954 e il 1975, quando esplode il fenomeno delle TV private e quindi si liberalizza di fatto il mercato pubblicitario. Tra il 54 e il 74 e il 75 si scontrano col fatto che un preciso accordo, che diventa poi una norma, impone alla RAI di rispettare il cosiddetto tetto pubblicitario, cioè di non riscuotere dal mercato pubblicitario più di una certa quantità di risorse annue per non toglierle alla stampa. Questo, che sarebbe di per sé un meccanismo sacrosanto e che poi non si capisce perché il tetto a questo punto continua a riguardare solo la RAI e non il sistema televisivo, visto che doveva salvare la stampa dalla concorrenza televisiva, non solo dalla concorrenza della RAI. Infatti adesso la cosa che vi dicono è che il tetto esiste perché la RAI riceve il canone. No, il tetto esisteva quando è nato perché la RAI non facesse una concorrenza eccessiva alla stampa e non distogliesse le risorse dalla stampa. Poi, di colpo, la vulgata è cambiata. Il tetto esiste perché la RAI è il canone e quindi perché non faccia troppa concorrenza a Mediaset. Veramente non era così che ce l'avevano raccontata quando la norma fu fatta, ma non è l'unico caso di una cosa del genere. Allora, nel 54, diciamo non nel 54, scusatemi, nel 57, quando comincia la pubblicità in televisione, viene varata questa norma. Che cosa succede? Succede una cosa interessantissima, perché l'Italia è un paese dove molto spesso la tragedia è che le leggi nate con una buona finalità diventano perverse. In questo caso che cosa successe? Che gli imprenditori però volevano andare in televisione, non gli importava granché di andare sui giornali a pubblicizzare i latticini, quando poi il cosiddetto responsabile d'acquisto dei latticini, all'epoca davvero, non come adesso, sostiene Berlusconi, davvero spesso non leggevano il giornale o lo sfogliavano appena. Che cosa successe quindi? Che a questo punto questo diede un potere immenso a un'azienda che si chiama Sipra, che era il concessionario di pubblicità della RAI. Perché la Sipra cominciò a fare questo discorso agli imprenditori che volevano a tutti i costi avere i caroselli, i tic-tac, eccetera, pubblicizzare la mozzarella, il detersivo, eccetera. Cominciò a fare questo discorso. Tu vuoi assolutamente arrivare alla RAI? Allora però tu dacci in mano a noi Sipra un budget pubblicitario molto più grosso di quello destinato alla televisione. Così tu arrivi ai caroselli. Il resto noi lo mettiamo nei giornali. In quali giornali? I giornali di partito. Così chi voleva fare la pubblicità ai pannolini finanziava la RAI e il Popolo, organo della Democrazia Cristiana. La Sipra però, da buona azienda veramente democristiana, era molto ecumenica, anche l'Unità era nel pacchetto Sipra, per un certo, addirittura il Manifesto per un certo periodo. Quindi non è che fosse poi malvagiamente orientata ai soli partiti di governo, finanziava la stampa politica e di tanto in tanto anche qualche quotidiano indipendente, tra virgolette, che aveva bisogno di aiuto. Quindi in questo modo, è vero, i soldi che non andavano alla RAI andavano alla stampa, ma andavano alla stampa in questo modo abbastanza paradossale, per cui andavano alla stampa selezionata di fatto indirettamente dalla RAI, creando squilibri economici molto grossi. Non so se vi siete resi conto che tutti i giornali di partito in Italia sono andati immediatamente in crisi tra il 75 e l'82-83, e che tra l'altro il fabbisogno, una parte consistente del famoso fabbisogno di cui parlavano Craxi, Citaristi, eccetera, eccetera, era legato a tenere in piedi i giornali di partito che stavano morendo perché non c'era più la Sipra. Cioè la Sipra c'era, ma la Sipra non poteva più fare questo giochetto, perché nel momento in cui nel 75-76 si liberalizzò di fatto il mercato pubblicitario televisivo in Italia, è come se fosse saltato un tappo. La percentuale della pubblicità sul fatturato, sul prodotto nazionale lordo italiano, raddoppiò in 3 anni. Che la domanda era domanda di pubblicità televisiva. E a questo punto le aziende cominciarono a investire in pubblicità molto di più che non nel passato, sostenendo così poi alla fine anche la stampa, perché facevano budget pubblicitari molto più grossi, il grosso andava alla televisione ma qualcosa andava anche ai giornali. Vedete che strana macchina. Ma mi direte, ma in Italia ci sono solo i quotidiani e la televisione? No, certamente. C'è anche la stampa periodica, che è un altro fenomeno molto interessante. Perché la stampa periodica, a differenza dei quotidiani, in Italia ha avuto uno sviluppo di massa significativo. E ce l'ha avuto soprattutto a partire dagli anni intorno alla Seconda Guerra Mondiale, subito prima e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È successo questo, molti dicono, come mai in Italia non ci sono quotidiani popolari? Non ci sono i quotidiani popolari perché la stampa popolare in Italia non è la stampa quotidiana. La stampa popolare in Italia è una stampa settimanale che va da alcuni settimanali femminili ai vari, Novella 2000, eccetera, eccetera, e prima c'erano anche Gente, Oggi e così via, e poi anche i fotoromanzi, per esempio. E se vogliamo parlare del pubblico maschile, appena fu possibile improvvisamente, tra il 1967 e il 1971-72, altro fenomeno che andrebbe studiato, la stampa pornografica. L'Italia è un paese che ha conosciuto un passaggio spaventoso nella sua storia. Nel 1966 si veniva arrestati per l'esibizione di un seno femminile. Nel 1971-72 in edicola si poteva comprare e sfogliare addirittura liberamente la stampa hardcore, con atti sessuali espliciti di tutti i generi. 4 anni, 5 anni. Un boom che non ha le uguali, in tutto il paese, in tutto il mondo c'è stata una liberalizzazione di fatto della pornografia tra gli anni 60 e gli anni 70, che è un fenomeno che nessuno ha mai capito nella sua profonda realtà. Però in Italia la cosa ha avuto dei tempi assolutamente schiacciati rispetto a tutti gli altri paesi del mondo, 4-5 anni. Tra l'altro è importante ricordarselo perché il boom delle TV private in parte fu retto da questo, nei primi anni, prima che arrivasse il fenomeno Berlusconi, e compreso il fenomeno Berlusconi, perché le ragazze di drive-in non erano pornografia, ma erano qualcosa che la Rai non si era mai vista fino ad allora. Ma a parte questo, se voi ci pensate, tra il 1974-75 e il 1980 in Italia la televisione non Rai porta dei livelli di pornografia nella vita quotidiana delle persone che erano letteralmente inimmaginabili neanche nei locali specializzati in spogliarello 7-8 anni prima. Nel 1958 viene fatta una retata, uno scandalo nazionale, eccetera, per il famoso striptease di Ayşe Nana, una spogliarellista turca nel locale Il Rugantino di Roma. 58. Nel 1969 il nudo femminile è dappertutto. Nel 1975 a Torino c'è lo spogliarello delle casalinghe. Tele Torino International si telefona e chi risponde giusto fa togliere un indumento alla signora presente in video con una maschera. Ora, anche questo è un fenomeno molto curioso che tra l'altro secondo me va tenuto presente, perché l'Italia è un paese che ha conosciuto nei media come in altri campi dei cambiamenti di una rapidità sconcertante e che tra l'altro hanno cambiato il modo di essere di questo paese in maniere che spesso non conosciamo. Torniamo comunque al discorso di prima. Ci sono i periodici sono importanti, però questo, i periodici significano una stampa popolare che non è una stampa di informazione. Perché che informazione dà Novella 2000? Che informazione dà, che ne so, Oggi o Gente? Danno una, diciamo, delle vaghe come dire, prese sull'attualità che consentono di tornare a degli schemi senza tempo. Cioè, fondamentalmente un numero di oggi del 1953-54, un numero di oggi di 10 anni fa o di 5 anni fa, poi dopo 5 anni fa non l'ho mai più letto, è sempre uguale fondamentalmente. La principessa triste, l'attrice che sembra bella, eccetera, ma ha un amore infelice, eccetera eccetera. Ci pensate, è sempre, cioè, voglio dire, d'altra parte le favole, come spiegava Bettelheim, i bambini se le fanno raccontare tante volte per coglierne meglio il significato. Si vede che stiamo andando avanti ancora a farci raccontare le favole, perché tante volte ci stiamo facendo raccontare la stessa storia. Questo è vero anche di buona parte dei quotidiani quando si viene alla cronaca, sia chiaro. I fatti che fanno cronaca sono in gran parte quelli che corrispondono agli schemi delle favole più amate. se c'è qualcuno, se c'è una Cenerentola nel mondo, fa cronaca immediatamente proprio perché fa favola. Però diciamo che a differenza del quotidiano, dove c'è il fatto di cronaca mescolato col fatto politico, mescolato col fatto economico, eccetera, nei settimanali, nei periodici, generalmente c'è solo il fatto, la favola, che poi nel fotoromanzo diventa l'essenza di tutto. Settimanali come Panorama e l'Espresso? I settimanali come Panorama e l'Espresso sono un fenomeno anche quello molto interessante, perché in un primo tempo, scusate, guardo solo che non, di non aver lasciato il telefonino acceso, perché no, non l'ho lasciato acceso. I settimanali come, per esempio, l'Espresso è molto interessante tra il 55 e il 70, e il 69 e 70, è tipicamente un settimanale di denuncia. Formato grande, articoli molto duri, scandalismo tosto, eccetera. E poi cambia formato e diventa un news magazine molto più simile al modello americano, un settimanale di approfondimento. E questa è la funzione, direi, dell'Espresso Panorama tra il 1966-67, Panorama prima e poi anche l'Espresso si adegua, e la fine degli anni 70. Però che cosa succede nel frattempo? Nel frattempo però questa funzione di giornale di commento viene vampirizzata progressivamente dagli stessi quotidiani. È il fenomeno della cosiddetta settimanalizzazione dei quotidiani, di cui Repubblica è il precursore primo. Che cos'è la settimanalizzazione dei quotidiani? Il quotidiano intanto comincia ad avere una struttura che non è più il mosaicone di una volta dove c'erano tante notizie diverse. Ormai le pagine sono tutte monografiche, questo è un modello che Repubblica ha imposto in Italia. E tra l'altro, guardate, è un modello molto pericoloso. Io me ne accorgo tutte le volte che confronto i giornali italiani con quotidiani veramente di classe come il Guardian o il New York Times. Perché spariscono le piccole notizie che non si inquadrano dentro uno dei temi di attualità. È assolutamente tipico. In Italia anche la cronaca nera va a mode. Quando si parla di pedofilia ci sono solo pedofili in giro e a quel punto il normale assassino di prostitute non ha più spazio. Poi quando arriva l'assassino di prostitute, allora ci sono solo assassini di prostitute. Perché il gioco del fare la pagina, che poi da un certo momento in poi viene rilanciato dalla televisione alla porta a porta naturalmente, quindi diventa poi un circolo sempre più autoreferenziale, crea questo meccanismo. Però la settimanalizzazione dei quotidiani accosta moltissimo pubblico al quotidiano stesso. Ricordiamocelo, cioè il fenomeno Repubblica, di fatto, io non ho mai amato Repubblica, devo dire da quando c'è Ezio Mauro lo amo un po' di più, non ho mai amato particolarmente Repubblica proprio per questi processi che a mio vedere hanno impoverito in parte il giornalismo italiano, però sicuramente è stata una rivoluzione. È stata una rivoluzione perché è stato il primo quotidiano politico nazionale, autenticamente nazionale, non legato a una singola città, almeno inizialmente, e poi legato a tante, e poi soprattutto perché per l'appunto ha settimanalizzato i quotidiani, rendendo l'informazione complessivamente più gradevole e leggibile anche per un pubblico al quale il quotidiano dei 1500 lettori non era mai piaciuto. Attenzione, anche Repubblica aveva e ha i suoi 1500 lettori, alcuni degli editoriali domenicali di Scalfari, se uno non sa esattamente con chi sta polemizzando in quel momento, capisce un quarto di quello che sta dicendo. Quindi anche Repubblica ha i suoi lettori privilegiati. Comunque è un settimanale che si può leggere piacevolmente e da allora è un quotidiano, scusatemi, e da allora il gioco poi è stato fatto anche dal Corriere e da tutti gli altri, cioè il gioco della pagina monografica in cui si trova la notizia, poi si trova il retroscena, poi si trova magari la foto del film che fa riferimento a un fatto analogo, per cui all'epoca di Thelma e Louise c'erano solo donne che andavano in giro sparando agli uomini e così via. Cioè esiste questo gioco per cui sostanzialmente si rende molto più attraente l'attualità. E contemporaneamente la si fa un po' perdere di complessità effettiva. Tra l'altro, da questo punto di vista è interessante notare che io ho ancora 5 minuti, sì, finisco quasi subito. È interessante notare che il meccanismo che sto raccontando si ripercuote, diciamo, in forma nettamente sulla stampa più povera, sulla stampa locale e così via. Per cui questo processo che nei grandi giornali come può essere Repubblica o il Corriere della Sera è comunque giocato su grosse firme, eccetera, eccetera, diventa nei giornali locali qualcosa di molto curioso. E poi vivo in una città dove c'è uno degli esempi più mostruosi, a mio vedere, di giornalismo italiano, che è La Nazione, a Firenze, che è un giornale ormai dove l'articolo più lungo è di 10 righe, 12, però ci sono ancora gli elzeviristi, solo che gli elzeviristi erano quelli che scrivevano l'articolo di bello stile, spesso in terza pagina, no? Quando D'Annunzio arrivò a Trieste. Ecco, adesso gli elzeviristi spesso scrivono il commento tra il moralistico, l'indignato, eccetera, al fatto di cronaca locale. Avete presente? Ne è piena la stampa locale italiana, per cui non abbiamo una stampa locale che informa molto sul locale, ma abbiamo una stampa locale che chiacchiera molto sul locale e soprattutto che continua a infiorettarlo di finte indignazioni morali e così via. Allora, tutto questo sembra un quadro estremamente pessimistico, vorrei chiarire che non lo è, nel senso che comunque alcuni fenomeni interessanti ci sono, più persone in Italia leggono i giornali, questo è un dato indiscutibile. Esiste una radiofonia in Italia di una varietà straordinaria che comprende anche fenomeni anche giornalisticamente di notevole livello. Penso al fenomeno radio popolare che a mio vedere è ormai molto superiore giornalisticamente al Manifesto dal punto di vista della varietà dell'informazione e anche dell'apertura del punto di vista, ma penso anche a fenomeni come la radio del Sole 24 Ore, che è un'eccellente radio di informazione e così via. Esiste una grossa domanda, a mio vedere, di informazione locale vera. Domanda più che non risposta. La stampa locale, a mio vedere, in Italia è molto debole, ma la domanda di informazione locale è molto elevata e si manifesta, oltre che nelle radio, in molti canali minori, che sono spesso espressioni dell'associazionismo, del volontariato, eccetera, che usano di tutto, compreso il computer domestico e le fotocopie o internet, per circolare. Quindi questo è uno strano paese. È un paese però dove i grandi media, a mio vedere, i grandi media quasi dappertutto sono fondamentalmente la televisione e i giornali. L'Italia ha avuto un grande cinema, ma lo ha avuto adesso. Non è certo il caso di vantarsene, ma in ogni modo i grandi media come la televisione e i giornali sono spaventosamente deboli. La televisione per i condizionamenti politici che fanno sì che il sistema televisivo e il sistema politico costituzionale in Italia siano quasi inconfondibili, quasi indistinguibili, sono praticamente la stessa cosa. E dall'altra parte i giornali lo sono perché non esiste realmente una grande stampa indipendente che faccia il quarto potere. L'Italia non ha mai avuto un vero quarto potere, come c'è stato nei paesi anglosassoni, ma come c'è stato anche in Francia stessa, dove comunque è stato possibile l'affaire de Dreyfus, ma ancora prima Émile Girardin, che è stato uno dei più grandi giornalisti della storia, era all'opposizione rispetto a Napoleone III e così via. In Italia una grande stampa critica è sempre stata una stampa dei partiti di opposizione, oppure in questa fase Repubblica contro Berlusconi, ma solo in questo gioco qua, che a questo punto rischia di diventare un gioco quasi personale. Credo di aver parlato fin troppo, naturalmente su tutti questi temi potremmo approfondire, discutere, eccetera, e spero di essere stato abbastanza provocatorio. Vi ringrazio. Ora Gianni Fossini per un altro intervento di 30 minuti e poi avremo il tempo di porre domande ai relatori. Sì, dopo la suggestiva lettura del professor Ortoleva io vengo alle vicende più modeste locali. Devo dire che le vicende locali corrispondono peraltro al grande andamento dell'informazione nazionale, salvo forse la stampa pornografica, ecco, sì. Ma per tutto il resto anche i formati, anche se voi vedete l'uso dei caratteri, sia l'Adige prima il mattino sia l'Alto Adige usano gli stessi caratteri della Repubblica, nel formato è il tabloid, cioè ci sono parallelismi infiniti. Adesso per affrontare sia pur brevemente il tema che mi è stato assegnato, penso che si potrebbe come dire, suddividere questo periodo in quattro momenti con tutte le approssimazioni che sono legate alla periodizzazione. Allora, fino all'istituzione della provincia di Bolzano, dopo l'annessione, la provincia di Bolzano viene decisa dal Consiglio dei Ministri nel dicembre del 26, poi concretamente la provincia nasce nel 1927, fino ad allora i giornali che venivano diffusi a Bolzano, per quel che riguarda la cronaca locale, erano i giornali di Trento, no? Sia il Nuovo Trentino di Cattolico, diretto fino al 26 da De Gasperi, sia il giornale liberale La Libertà, sia il Gazzettino, che dopo sarà presente a Bolzano con un proprio giornalista durante tutti gli anni del fascismo, ed è sicuramente un qualcosa che andrà catalogato anche il Gazzettino, perché era l'unica fonte alternativa rispetto al giornale ufficiale fascista. I giornali di Trento intitolavano le corrispondenze da Bolzano, da Merano in giro, Alto Trentino, perché voi sapete meglio di me che Alto Adige è un marchio di Tolomei, no? Di per sé la dizione Alto Adige faceva riferimento al dipartimento napoleonico dell'Alto Adige, che aveva come capoluogo Trento, tant'è vero che il giornale liberale che uscì a Trento tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale si chiamava Alto Adige, no? Quindi i trentini, come dire, disconoscevano il marchio di Tolomei, preferivano tenere agganciato il territorio a nord di Trento, intestando, appunto, titolando le corrispondenze Alto Trentino. Poi sulla denominazione ufficiale Alto Adige ci fu una lunga polemica che vide i trentini contrari a questa dizione, e lo stesso Starace, che poi diventerà segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista, era contrarissimo a chiamare il territorio che oggi corrisponde alla provincia di Bolzano Alto Adige, appunto anche lui preferiva Alto Trentino. A Bolzano propriamente erano nati solo piccoli periodici di incerta periodicità, qualcuno settimanale e qualcuno meno, che sono poi le uniche fonti che abbiamo a disposizione. Nel Piccolo Posto, che forse è il più interessante, era un giornale, un periodico fascistissimo, ma ricco di cronaca. Ovviamente quando si prende in mano il Piccolo Posto bisogna sapere che cos'è, ma insomma notizie ce ne sono parecchie. La rivista della Venezia Tridentina, La Voce del Sella, che era stampata a Trento e aveva parecchie corrispondenze dalla Gardena e dalla Badia, cessa anche questa quando viene istituita la provincia di Bolzano. Poi altri periodici, Il Ponte per esempio, già la testata indicava, no, un progetto politico di collaborazione. C'erano poi anche periodici socialisti molto, molto aperti alle problematiche altoatesine, anche perché uno dei leader del socialismo era Silvio Flor, che era di origine credo della Val di Non, ma insomma si era formato a Merano, sia politicamente sia sindacalmente, e tra l'altro anche interessante Flor perché veniva proprio dai tipografi, né? Quindi era particolarmente legato a questo mondo. Poi Flor ovviamente diventa antifascista, parteciperà alla fine della sua vita all'Andrea Sofferbund, cioè uno dei pochi momenti della resistenza, no? Su tirolese che ebbe presenze minori rispetto a quanto è avvenuto in altre zone delle Alpi italiane, per tutta una serie di motivi, l'Alpenvorland, la presenza dei nazisti. Ecco, su questo periodo diciamo che delle donne opportunamente ha già, no, fatto gli indici del Piccolo Posto, della rivista della Venezia Tridentina, adesso la provincia di Bolzano. Ecco, il secondo periodo è il periodo del fascismo, quando nel 27 viene fondato la provincia di Bolzano, dura dal 27 al 1943, il quotidiano in lingua tedesca era una specie di traduzione della provincia di Bolzano, era l'Alpen Zeitung. Sia la provincia di Bolzano sia l'Alpen Zeitung fanno capo al sistema organizzativo dei quotidiani provinciali del fascismo. Inizialmente grazie a contributi di enti ed aziende locali, poi dopo fanno capo dell'ente gestione stampa del Milkunpop, del Ministero della Cultura Popolare. Voi sapete che il fascismo fu molto attento, anche perché Mussolini era nato giornalista, insomma, tra l'altro aveva fatto i primi passi col giornale di Battisti a Trento, quindi Mussolini era molto attento ai problemi della stampa, non toccò probabilmente i vertici e la raffinatezza propagandistica che venne toccata dal nazismo, però insomma anche il fascismo fece parecchie cose nel campo dell'informazione, e il fascismo appunto in questo campo tra l'altro aveva creato prima l'ufficio stampa del Partito Nazionale Fascista, poi l'ufficio stampa del governo che diventa sottosegretariato, poi ministero per l'informazione con Ciano, e infine diventa quel che in sigla si chiama Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare. Il giornale locale vive insomma abbastanza stentatamente, riesce ad avere buone cifre di vendita, arrivando alle 7.000 copie solo negli anni quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, nel 1940-1941, e poi aumenta addirittura fino al 1943 le vendite. Perché? Perché i giornali nazionali stentavano ad arrivare, c'erano restrizioni di carta, eccetera, e la fame di notizie era alta, perché ahimè il paese era in guerra. Ecco che lì riesce ad avere una notevole vendita. Anche l'Alpenzeitung è sulle stesse cifre, quasi 7.000 copie, che per il periodo erano cifre più che consistenti. Sul fronte di lingua tedesca, dopo un'iniziale proibizione di qualsiasi organo a stampa in lingua tedesca, il fascismo ammise, specie dopo il concordato, la possibilità di uscire con dei periodici settimanali o trisettimanali, che sono il Dolomite e il Volksbote, che sono testate che sono tuttora presenti sulla nostra piazza. Arrivano il Dolomite a 13.000 copie e il Volksbote a 17.000 copie. Nel 1935, anche per via della crisi della carta legate alle sanzioni, chiudono tutti i periodici collaterali della Tesia, la di Frau, il